His honor and mercy mine, God and sinners reconciled, joyful holy nations rise, joy the triumph of the sky, with angelicals proclaim Christ is born in Bethlehem. Hark, the herald angels sing, glory to the newborn. The herald, the herald, the herald, angels sing. Oh, oh, oh, oh, the herald, the herald, the herald, angels sing. Oh, oh, oh, the herald, the herald, the herald, angels sing. Oh, the herald, the herald, the herald, angels sing. Highest and adore Christ, the everlasting Lord. In time behold him come, offspring of a virgin born. Veiled in flesh the God at sea, hailed incarnate deity. Pleases man with man to dwell, Jesus our Emmanuel. Herald angels sing, glory to the newborn King. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Ora essa ha illuminato il popolo che viveva nell'oscurità.

che riordina, vita che mi guida a vivere. Non ci sono limiti, cose impossibili, per Gesù il vivente redentore. Niente mi separa. Sono visto che sono vivo, io vivo in te Gesù. Me! Quella pietra è tolta, la tomba è vuota, la morte non c'è più, e per questo che sono vivo, io vivo in te Gesù. Quella pietra è tolta, la tomba è vuota, la morte non c'è più, e per questo che sono vivo, io vivo in te Gesù. Gesù è vivo. Gesù è vivo. Gesù è vivo. Gesù al centro di ogni cosa sei. Gesù al centro di ogni cosa sei. Dal principio sempre tu sei stato e per sempre tu sarai. Gesù, niente altro al mondo è importante quanto te. Perché tu sei il centro, ogni cosa ruota intorno a te. Gesù, tu al centro di ogni cosa. Dal mio cuore dedicato a te. Ogni singola cosa che facciamo in questo luogo, queste canzoni che stiamo cantando, sono incentrate su di te. Tu sei il centro delle nostre vite, sei il centro di ogni nostro pensiero. Io ti prego che se ancora non lo sei, che tu possa presto diventarlo e che insieme possiamo in un unico cuore alzare la nostra adorazione in questo momento, che possiamo insieme partecipare a questo coro di angeli che in questo momento sale saltando il tuo nome, perché solo tu sei degno, Padre, perché solo tu vali, perché solo tu puoi. E in questo momento noi mettiamo tutto nelle tue mani, ogni difficoltà, ogni problema, qualsiasi circostanza, Padre, qualsiasi peso che ci affligge, che ci ha portati a venire qui con aspettativa. Io ti prego di rispondere a quell'aspettativa, che tu possa essere il centro del nostro mondo e che possiamo trovare la nostra soluzione in te. Quindi ragazzi, chiesa, persone, ora tutti quanti insieme alziamo la nostra voce, alziamo le nostre mani in totale di segno e resa, in segno di totale resa davanti al nostro Dio che può, davanti al nostro Dio che è capace, davanti al nostro Dio che è l'unico. Quindi alziamo le nostre voci. Magi d'Oriente, dopo un lungo viaggio, si sono ritrovati davanti a Gesù appena nato. E cosa hanno fatto? Lo hanno adorato e si sono prostrati davanti a lui. Provate a immaginare tre uomini adulti con dei doni nelle mani che si sono letteralmente prostrati a terra davanti a un bimbo appena nato. Ma loro sapevano che quel bimbo era speciale. Quel bimbo appena nato era il re che tanto stavano attendendo, era il Salvatore. Il re è sceso sulla terra, il regno di Dio è sceso sulla terra, in mezzo agli uomini. Un regno eterno, un regno eterno. E il re ancora oggi sta attendendo cuori di uomini e donne che si prostrino davanti a lui e che gridano con un cuore sincero: Gesù, tu sei Dio. Gesù, tu sei il mio Dio. Gesù, tu sei Dio. So che tu sei Dio, nella mia debolezza trovo forza in te, che sei il potente Dio. Tu che sei io, la mia certezza è che ovunque sono, tu sei più grande, sono al sicuro, sì tu sei Dio. Sovrano sei, sulla terra sì, tu sei, sovrano sei.